Al-Ikhlas, il puro monoteismo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Qul huwallahu ahad. Di, egli Allah è unico. Allahu samad. Allah è l'assoluto. Lam yalid wa lam yulad. Non ha generato, non è stato generato. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E nessuno è uguale a lui.